liberi come le stelle, contro ogni carcere giorno dopo giorno. Ritorna all'appuntamento con le cene di Scarceranda, ogni primo venerdì del mese al Forte Prenestino. Venerdì 4 marzo, porta aperte dal carcere. Ore 19:30, aperitivo reading, letture e racconti di esperienze dal carcere. Ore 20:30, cena Scarceranda. A seguire selezioni musicali. GSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino 100 celle. Perché il carcere nuoce gravemente alla famiglia.